così. Lui venne alla zona di Sorsa con la sorella. La sorella non voleva mettere il baracchino perché noi lo volevamo mettere, non ha voluto la sorella. E per fargli, adesso se la impara lui a provarci, lui era abitato che parlava la sera. Adesso gliel'hanno tolto, capito? Se la impara lui a provarci. E infatti le persone che hanno problemi, cioè il baracchino, insomma, riescono un po' a sentirsi più integrati, mettiamola così, da. Non è bello, non è bello per dire il baracchino che ha problemi. A proposito, mi è venuto in mente, tu te lo ricordi tale Fabrizio Cervobianco? Cervobianco no, non lo ricordo. Ecco. Registrato. Era un CB non vedente. Non si è voluta la storia, poi alla fine abbiamo scoperto anche di essere lontani parenti. Vabbè. Cervobianco niente, tu non te lo ricordi, Riccardino non se lo può ricordare, e allora avanti Riccardino. Ok, ciao Fabio, ciao Gianni, ben ascoltato. Ho sentito di questa, ho appena acceso, ho sentito solo a voi due, però penso che ci siate solo voi due. Forse ti sbagli, Fabio è stato Toro Bianco. Ah, ciao Luca. Toro Bianco, ciao Luca. No, Cervo Bianco, Toro Bianco. Negativo, Cervo, Cervo, tranquillo Cervo. Io mi ricordo Fabrizio Toro Bianco, dai, sono andato a salutarvi perché sono un po' stanco, mi sono anche addormentato, mi sono appena svegliato a fare la puntura alla mamma, adesso continuiamo a fare la nanna. Vai, vai, tranquillo. Ciao Luca, buon riposo. Tu Gianni. Ci siamo sovramodulati. Pure? Sì. Giù Maria. Stavi dicendo? Niente, che ti ascolto pure quando dorme Luca, capito? Cioè, stava dormendo con il baracchino acceso, pensa tu che ascoltone che ha, due orecchie feroce che c'ha. Anche io lo faccio, mi concilio il sonno tante volte, la frequenza è, mi addormento dopo pranzo e poi magari qualcuno che ha la voce forte non mangia e mi sveglia. Ah, così, io guardavo le partite di calcio così, non quelle dell'Inter. No, io per il calcio non sono per l'acquario. Non mi piace di brutto il calcio, brutto, non stravedo come certe persone. Neanch'io tantissimo, però sono appena tifoso e quando capita una cosa con piacere una partita, così bevo la mia mitica birretta da tre dita, quelle piccole line, che le bevo solo quando penso di voler fare festa, capito? C'è che ce ne deve cassettere, io me la godo con la piccolina, me va bene così. Luca, ma allora rimani con noi? No, sono un po' stanco, farà. Un po' stanchetto, lui, non ce la farei. Comunque se ne ascolto qua, un attimino che sto mandando dei messaggi alla 25 al telefono, dai. Prendete voi. Offa. Cappa. Ma vuoi ridere? Ah, poi facciamo entrare Riccardino, ci facciamo entrare, ce la fatti Riccardino. Sì, vado avanti io. A proposito del calcio, io non sono manco tifoso. Non ne guardo e non mi interessa, non stravedo. E manco io. Offa, ma vuoi ridere? Tu l'hai mai visto un tipo in strada con il coppo beccando gli uccelli? Con il coppo? Con il coppo, il guadino, come lo vuoi chiamare? No. Stamattina io ero così, mi sono scappati tutti i canarini dalla gabbia, mi sono dimenticato la porticina aperta e sono finiti perché sono in veranda, la veranda ti spiego, vedi quelle scorrevoli, no? L'avevo lasciata aperta un po' per farli entrare un po' d'aria e sono andati fuori dalla veranda e sono calati sul filo da stendere e praticamente tutti e tre. 3 su 6 mi sono scappati. Il cane praticamente li ha visti, è andato subito a beccarli, si sono spaventati e sono volati fuori, sono andati in cortile, sopra gli alberi, tutta la mattina cercandoli, facendo. Poi se ti dico come li ho presi, dopo tanto cercare ne ho preso uno che si è calato sul cofano della mia macchina. Abbiamo messo il coppo sopra e l'ho preso. Il secondo, dopo sono sceso col cane, dopo che ho mangiato tutto quanto, scendo giù, controllo tutto il cortile, lo vedo sopra il cancello, sto tranquillo, mi ha fatto avvicinare quasi un millimetro da lui, sono andato a beccarlo, cazzo, l'ho sfiorato e se n'è scappato, se n'è andato a finire sopra un albero, poi proseguito, saltato il cortile dell'altro condominio, sono entrato dentro dove c'è il bombolone del gas perché sei entrato lì, poi indovina dove è finito, se n'è scappato di nuovo ed è andato a finire sopra, anche tu c'era la macchina, anche quello, tutti quanti sulla macchina mia sono carati, casino, se non capisco perché sono andato col colpo, ho preso anche quello, ne manca uno adesso, quello che cantava un bel cazzo, se ti mando cosa come cantava è allucinante come cantava quello lì. Domani mattina alle 8, siccome lui mi dava sempre la sveglia alle 8, devo controllare a vedere se lo sento cantando. Cavolo, c'è da avere pena perché non è abituato a fare fuori soprattutto, no? Già. Allora, non si sanno cercare da mangiare né niente, poi dove lo trovano? I canarini mangiano semi, mangiano lattuga, mangiano pesche, mangiano frutta, c'hanno il pastoncino loro che li do io. Sai, ogni giorno io gli metto la roba, capito, fresca. Lì non so dove possano beccare la roba, cosa possano mangiare, il cortile che ci sono alberi e basta. No. Da? La batteria? No. No, non la vedo buona, devi impegnare un pochino a trovarlo subito. Adesso stanotte chissà dov'è. Come si passa la nottata. Non ti voglio dire cose brutte, però. Chissà dove si è infilato il succello. Però potrebbero capire male. Ascolta, cosa ti volevo dire? Che io lo riconosco fra mille uccelli perché canta in una maniera particolare, c'è un canto che è penetrante proprio, di quelli fortissimi, proprio c'è un canto fortissimo, poi adesso che sono in amore, stavano sempre cantando, la mattina c'avevo il concerto, qui già sentite anche come si chiama, Giacomino. Sì, Giacomino, da Riccardo passo a Robertino, da Robertino passo a Giacomino. Riccardino. Dai, Franceschino, dai, non te la prendere. Riccardo, cosa ci racconti? Ma dove sei adesso, nel garage? Sì, in garage. Adesso, come ho detto, mi sono comprato la scrivania, la devo piazzare, l'unico step che mi manca è piazzare l'antenna su 3 metri di palo sopra casa, quindi sono 6 metri di palo più 7 metri di antenna. E che antenna metti? No, Serafino, se io metto I Love Sirio Blizzard. Ah, una per Blizzard ti prendi? Sì, vanno benissimo, mi va bene quella. Adesso devo prendere le misure per l'RG213 e vedo quanti metri di cavo devo prendere. Va bene, va bene. E vabbè, tanto non mi batti. Sempre uguale siamo di segnale. Anzi, oggi tu eri l'ultimo. Guarda che Antonino si offende. E comunque anche devo fare sul tetto e prendere i metri. È arrivato il cavo, 120 ne ho preso. Però il 58. No, non devo fare niente di speciale. Va benissimo il 58, è perfetto, perde poco, 4 watt sono bellissimi. Meglio il 58. Devo prendere le misure e fare le calate, anche perché adesso ci metterò un paio di antenne, anche perché per ascoltare l'LV doppio. Pensiamo di metterci qualcosina più interessante, perché tra una cosa e l'altra mi sono fatto una bella antenna, sta funzionando benissimo qua dentro casa, ma secondo me sul tetto gira un po' meglio, che ne dici? Scusa, c'è casa singola o condominio? Adesso il condominio, infatti adesso devo tirare giù la scala dall'ultimo piano, di quelle scale a molla. Salire su col metro, vedere un pochino il palo, che condizioni è, mi sa che dovrò cambiare anche il palo, dopo 20 anni, mi sa come cacchio è. Tu 20 anni ci abiti già lì? Beh, qui diciamo che ci abito, poco ci abitato, da 76, poi sono andato via praticamente che avevo 7 anni, tra una cosa e l'altra, e mi sono girato un pochino, sono stato un po' da Alghero, un po' a Porto Torres, un po' a Roma, e poi alla fine sono tornato qua e niente, ho trovato lavoro a Dulbia, ho preferito stare a Dulbia per 20 anni e ora sono ritornato. Allora, per dire palle, col baracchino, non con le chizzenti. Ma ti sei sistemato anche col lavoro qua? No, quando stavo iniziando un attimino a prendere un po' di giro è arrivato il virus. E il mio lavoro è un po' particolare, un po' a fiducia, un po' a persona, anche perché professionisti in giro non ce n'è, tutti fanno lavori come capita. E allora pian piano, da cliente a cliente, da passaparola, vicino di casa, l'amico, eccetera, ti fa il giro. E un po' di giro lo fai pure piazza, lì c'è poco da fare. Clienti ci raddoppia, spero di recuperare quelli che riesco a recuperare. E un po' di clienti là, un po' di clienti qua, per non so quanto tempo andrò avanti così. Ancora un sacco di punti interrogativi. Hai buone prospettive per il futuro. Eh sì, ma tanto il discorso mio è che mia madre stia bene, quello in primis. Una volta che mia madre sta bene, sta a posto, allora posso avere più certezze, capito? Adesso vediamo un po' come la cosa. Una volta che mi stabilizza, cercherò di capire qual è la strada migliore da intraprendere. Comunque non temo, perché dove mi metti io faccio, non sto mai con le mani in mano. Ehi, vengo avanti io. Mi sono perso che stavo mandando un vocale e abbassato il volume. Ci credete? Ma perché fa queste cose quando tu sei all'apparecchio? Quando sei all'apparecchio, devi stare all'apparecchio. Ma stavo parlando di cose importanti. Mi sto parlando proprio di apparecchi. Lascia perdere le ragazzine. Sto sistemando la storia del mio 430, cosa me ne frega a me adesso? Vedi come si fa a farla di là, Giacomino? No, Francesco, tranquillo. Fra 6 mesi vedrai come seguirà più le ragazzine che la radio, te lo dico io. Prima già c'era anche quella prerogativa del radio. Io me le rimorchiavo qua. Ma pensa tu che io sono rimasto con Giovanna per 3 anni, praticamente quasi. Ed è arrivato col baracchino, Capagatto, vedi, io ne ho conosciuto un bel Samantha, ci uscivo insieme. Via, tutta quella compagnia là, ce ne ho tante, Paola, Daniela, Silvia, Biglietta, ce ne ho tante. Poi c'erano anche delle 50 in frequenza, insomma, c'erano anche donne. Adesso, oggi ho sentito, dopo Giovanna, che è la sorella di Pomponio, per la prima volta una donna, che è la 50, no, la 25, la 25 di Lucca, mi sa. Ah, sì, Marina. Via Marina, sì. Aspetta qua, una voce femminile in frequenza, fa sempre piacere al di là di tutto, qualche sia impegnata, non impegnata, però è sempre bello, vero? Sì, è vero, è tipo un quadro senza cornice non dice nulla, quando c'è la cornice invece è completo, così sono in frequenza, se ci fossero le donne sarebbe più completa la situazione. Certo, questo sta anche a noi, nel senso che se l'ambiente è favorevole, se la cosa è simpatica, magari ci finiscono in mezzo, 4 chiacchiere, può essere una cosa anche abbastanza intrigante, anche perché vabbè comunque adesso si comunica molto con i social, perciò è un modo un po' come il baracchino per comunicare. Io quando ero ragazzo, il mio Facebook, il mio WhatsApp, il mio Instagram, il mio Snap era baracchino, cioè la nostra chat era questa, te lo ricordi? E a voglia. Io mi ricordo anche di una ragazza di Proaghi che scappava dalla finestra in pigiama per venire con me. Oi. Gianni. Ho capito perché ti piace il baracchino, ci sei affezionato. È un rubacuori. No, è era un ragazzo, 19 anni aveva, lui andava con la musica ribattiata a tutto volume. Avanti, che è entrato. Ciao T. Ui, allora, Gianni non ruba a cuori. Magari quando era giovane era un bell'uomo, piaceva. Ehi, diciamo che già me lo tolte le castagne dal fuoco. Ah sì, e le cotte bene? Cotte e stracotte. Noia. Ma non solo da giovane, anche adesso. Va bene, va bene, la vita continua, quindi. Anche adesso. Io non mi vergogno a dirlo, io ho avuto altre tre donne dopo mia moglie. Beh, non penso che sia una vergogna, eh. No, non è una vergogna. Avventure così, però. Avventure di tre mesi, però. Sempre avute le... Solo che mi sono scosciato. L'ultima voleva casarsi, ma non ve la fa. Fabio, vabbè. Ben entrato, Tino. Mi sono preso appena adesso uno spaghetto, che... Pensavo che stavo facendo fumo la baracchina, invece ero io con la mano con la sigaretta, ti dico. Pronti, ho visto la macchinata stamattina, tutta fatta una cosa, non trasparente riuscì. E allora, vabbè. Devo dire la verità, che eternamente purtroppo il sole l'ha un po' sbucciata. Vabbè, ma non mi interessa, sinceramente parlando. Perché gli ho fatto di tutto di più con la macchina, ormai, guarda, credimi, di tutto quello che gli ho fatto non credo neanche di venderla, perché ci ho speso troppi soldi, la macchina va bene, quindi, grazie a Dio. L'unica cosa, l'unica steccaiera che è sbucciata dal trasparente, ma io ho pazienza. Buon muscolo, ciao, ciao Tino. Ciao Ricca, ciao, scusa, non sapevo neanche chi c'eri, perché sinceramente sono entrato in botto, quindi non so neanche chi c'è. Otti, la puoi rifare, la puoi verniciare, la porti a Roberto Quadrato e te la rivernicia, gratis. Registrato il breco, ah beh, se è gratis va bene, perché io ho un collega di lavoro ci vuole pagato, però. Lascia perdere, avanti il breco. Buonasera, Tino, buonasera, saluta la ruota, che piova giunto da muro, si riprendi, sì, buonasera. Ciao Claudio, un segnalone dalle parti tue, caspita, complimenti. Grazie, sentito, già hanno quell'affare, se mi prendo un po' tutti, come ti sto arrivando, se mi puoi dare un controllo. Ma guarda, ti ricordo che io sono in una valle, quindi il mio segnale forse più veritiero è Gianni, perché essendo in città io sono in basso, quindi sono molto in basso. Fai da Santiago 8 a 9, modulati. Sì, sì, già va bene, ciao, tu mi stai arrivando molto più, così. Riprendi il cartino, buonasera anche a te. Claudio, mi hai ascoltato, buonasera anche a te, ricambio. Avanti. Buonasera. Ma siamo parlati insieme già, perché c'è stato il casino di brutto qua. Riccardi, ma come stai? Vabbè, faccio per una birretta e poi torniamo a fare i conti. 9,5 comunque. Qua chiodo spacca, spacca chiodo. Tipo 9,15 tutti a 30. Sì, anche qui è forte rispetto a prima che era in mezzo al QRM. Sono contento, guarda, credimi, Claudio, sono contento per te. Sì, grazie, sì, anche io sono molto contento, diciamo, stasera usando il pallone palle, che sei a fare acqua da farino, che mi era tutto, e stasera ho usato anche la LAN 48, ho visto che si può abbinare anche la LAN 48, lasciandolo di appello, funziona anche la LAN 48. Riccardo, mica il giorno adesso ha fatto lui, per la retta del numero, adesso mi ha detto che sono autorizzato a farlo dare da Roberto, lo riprendi. Ok, allora glielo dico a Robertino. Ok, riprendi Gianni. E adesso se... diciamo, si è equipaggiato Claudio. Adesso è un'altra cosa. Almeno la voce è normale, non è satura, non è più, ma è troppo satura. Comunque se tu abbassi appena appena i watt di quell'apparecchio, non mandi a 3 watt, 4 watt, poi esci bene, proprio la radio te la lascia limpida, limpida anche quando lo metti al massimo. Diciamo che era 4 watt di serie, questo è il tastone base, quello che ti stavo parlando stasera, il modello 78 574, tastone base della Multimam. sto usando quello, passare a questo sta proprio l'Alan 48, sta proprio, quello tira un po' basso, diciamo, perché l'hanno modificato, l'hanno, e più ci modulati, sì, sì. Ma basta girare un trimmer, quello lì non ci vuole nulla. C'è un trimmer, basta girare, tuo padre già lo sa, e abbassa la potenza, così tu puoi usare il lineare anche alla massima potenza, così. Sì, questo è meglio. Anche io passerà, mi abbiamo comprato una radio, diciamo, una radio che è un ricettore dell'Alitraster antico, viene funzionata a valvola. E, diciamo, ricette le fonde corte, anche la 27 MHz, veramente quello, infatti lo stavo provando, stavo passi, un preventino. Va bene, ma io, sinceramente, là, quando te l'ho fatto vedere, dai, in funzione, ce l'avevo con un 48, con un 48, quindi non potevo abbassare il watt perché i watt lì sono in modulazione, mi va sui 15 watt, quindi non potevo abbassarli, però va bene, dai. Sì, va tutto bene, tutto quello sta sparando 200, dai, la voglia. Questa la 48 che è bellissimo, complimenti, No, ma quello che ti devi mettere coppia? No, già, ti ricordi quello che mi avevi dato tu, quello che avevi messo le luci? Praticamente ho messo delle luci rosse e blu, quindi sì, è semplice, non è quello che... però l'ho personalizzato, la cosa tua. Vai Riccardì, avanti. Sì, sì, me lo ricordo che ti avevo regalato la parte davanti ed era sempre di quell'apparato che oggi ti ho dato i coperchi. Ah, bene, no, io ancora non ho fatto niente, credimi già. Vabbè, poi sono andato da Luca Flipper a fargli visita, così giusto per vedere un po' un vecchio amico. Nel frattempo ho approfittato a portare mio figlio lui a giocare a Sant'Orsola con degli amici, quindi mi sono trattenuto un pochino da Luca. E niente, ho temporeggiato un pochino, ci avevo avuto due birrette e poi ho preso la pizza e sono venuto a casa. Vabbè. Comunque già sono belli nuovi, dai, sono abbastanza abiti. No, vanno bene, non so cosa è, che devo verniciare almeno la parte grigia, perché effettivamente è una radio che sinceramente mi hanno regalato, già modificata con i 120 canali, con il VAT e tutto quanto, però era buttata in uno scaffale, quindi sposto da una parte, sposto dall'altra, un po' di menefreghismo. Cosa è successo? Che si sono graffiati, poi il graffio, come tu sai, ha preso l'ugine, quindi per fare il cofano preferisco metterli già nuovi, così in maniera tale che non faccio altro che prendo una bomboletta di grigio, gli faccio la mascherina grigia e basta, ci metto i tappi nuovi e tira che io, se riesco a darlo intorno alla 130, perché è modificato, anche 150 mi ci deve fare, perché però sai, molta gente fa il muso quando gli dici 150, quindi vabbè, vediamo, se riusciamo a venderle bene, se no ciccia, non lo tengo, non è che non mi sta chiedendo niente. Scusate se mi intrometto e vado in carica, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, ciao Torino, ciao Claudio, doppio room e a tutti gli altri alla ruota, a tutti gli altri eventuali che mi sono dimenticato, ciao, a più tardi, vado in carica. Ciao Riccardo, Torino non so se c'è, ti ho rilanciato, allora si sarebbe venuta la birretta, quindi non mi ha risposto, va bene, buona carica, riprendi Gianni. Ciao Riccardino, ciao, buona carica, avanti, siamo quasi ritornati, ma per te forse è troppo tardi, avanti Teodoro G. Riccardino, buona carica, due tu, questo è io, magari se ci siamo dopo e ci sentiamo più tardi, ciao. Bene, bene, bene, bene. No, io adesso sono in cerca di fare fuori un po' di radio, perché sinceramente sto facendo collezionismo, quindi non mi interessa. Ma ho anche un Inter che... non Intec, scusami, uno... non ricordo, cavolo... sì, un Intec lo stesso, dovrebbe essere quello piccolino, non ricordo cos'è quello. Però ho anche uno a controllare, perché... sinceramente non voglio fare brutte figure quando ho la roba, quindi per controllarlo, verificare come andava, quello piccolino nero. Beh, ho capito, quello che c'è il microfono con lo spinotto a spina, che non si è visto. No, già, ha lo stesso spinotto del Midland, del 48, però ha 4-5 rete, piccolino, semplice, dai, volume, squelch, cosa c'ha, AMFM, basta. Io non avevo uno 4.30 di Intec, tanto buon gusci a voci, c'avevo un microfono di quelli con la batteria da 1.5, ma sa quanto ci va bene nella macchina. L'unica cosa che aveva è che va quel microfono a spinotto, come tu tiravi di 10 a vola. Ah sì, come il SERP, SSB che ho io, l'ho regalato a Walter, e però quello lui non lo tengo perché è un muletto, caspita, è un... è pesante, c'è proprio, si sente proprio la radio che c'è, e poi è un regalo, a me come fa un regalo, io mi affeziono, non riesco a vendere, soprattutto, lui mi ha dato anche un Lincoln, infatti l'ho fatto ripristinare, adesso se riesco, quando ho 5 minuti gli metto il più 5, che ne ho 2, quindi uno lo voglio fare a Lincoln. Oppure gli metto un più 4, adesso vediamo. Cioè ti fai un calmetto e ti puoi mettere sia l'uno che l'altro. Sì, però ti dirò la verità, Gianni, che ce l'avevo il calmetto, perché me l'avevo fatto Antonio per collegare Lincoln con i microfoni normali del Milan, del 48, così, ne ho anche uno che puoi collegare, mi sembra, non sono sicuro se posso collegare l'MC60, aspetta che guardo. Io ti ho la fortuna che sono tutti con lo stesso attacco, gli apparati che ho. Sì, lo so, riesci a vedere. No, perché forse ho anche la... un cacchio da qua, no. Aspetta, guardo. Lo voglio in un cassetto. Tranne uno, balla mia, che... quello omologato che c'ha 6 punte, dai. Ecco, lui non lo uso mai, ce l'ho sull'armadio, nuovo, non l'ho mai utilizzato, poche volte. Guarda, ti dico la verità, forse... sì, lo posso attaccare, però rimarrà, come si dice, rimarrà normale perché non è alimentato, ecco. Deve trovare quella vernice per fare la cornicetta dell'ala 40, perché di Gigi che lui le ha fatte le cornicette del 40, te le aveva verniciate. Sì, vabbè, comprerò la bomboletta. No, per sapere dove le ha prese, perché quello che ha fatto lui praticamente ce l'ho io ed è perfetto, sembra fatto dalla FAB. Ah, ho capito, beh. Io vedrò là. Allora, io. Comunque quello che esce bene. Quello puoi presentare anche a me, perché vuole tutto dritto la scatola, sembra nuovo. Sì, no, vabbè, già. Quello che io riesce bene lo stesso. Ti ho messo anche la cosa, come si dice, le spiegazioni, l'indice dell'apparato. Sta scendendo basso, ma basso però, quasi non si sente nulla. Questo è il palmare, vedi un pochino? Questo va bene, che palmare è? Questo è l'MC43, però con il Lincoln sto andando. Va bene. Di questi ne ho un paio, però vabbè, non mi interessa. No, a me non mi piace avere il palmare. No, com'è questo MC43? Non lo conosco. È quello l'originale dei classici K. Ah, ho capito, no, pensavo fosse un amplificato, sinceramente. No, questo è normale. Ti faccio sentire il microfono normale dell'HR5005, mi ci vai che stai usando un microfono amplificato. È come quello dell'S980, la stessa cosa. Fabio, ma... Cazzo, stavo ascoltando, dai. Intervieni. Intervengo? Se intervengo, ragazzi, non mi conviene che intervenga. lasciate il stare il cane che dorme, tranquillo. Intervieni, non ce ne sono. Noi non ci smuoviamo da qua. Così è. Guarda Gianni, questo è l'altro, è palmare. Aspetta, questo qui è sempre quello. Di che cos'è questo qua? Quello delle 5.50? Sì, questo è del 5.500, l'originale però, eh. Sembra amplificato al vivo. Beh, K, anche io ho un dinamico che sembra che spari chissà cosa ed è un dinamico. E quando azzecchi l'impedenza sul modulatore che nascono queste magie, capito? Quello c'è avuto l'impedenza esatta all'ingresso di quel modulatore. Il modulatore è nato pensando quella cattura lì, pensa tu. E io ce l'ho sia nel Galaxy, l'originale che va bene, e nel 980, nel Magnum, che sembra amplificato. Ma figurati che insomma, a parte che dà dei picchi allucinanti, va bene, però non lo metto a paragone a un microfono a tavolo, però è forte. Ma stai scherzando? Qua sull'altro apparato stai sbattendo 9.40 da 9, cioè c'hai da 9 a 9.40 di picco, figurati. Sì, lavora bene il... No, vabbè, lavora bene il picco di modulazione, vabbè, magari con un amplificato ancora di più, però per dire che un palmare è buono. È un gioiellino, quello che te lo sento da parte, è stato un bel microfono, Mi piacciono un bel queste cose piccole che fanno grandi storie, mi piacciono molto tanto. Sì, io ne ho uno che funziona più o meno così, magari un po' di meno, però hai proprio il tono dell'amplificato ed è un banale dinamico, un pezzo di plastica, devi vederlo, proprio una cosa banale. Eppure in radio tutti mi hanno detto che c'è molto forte, anche riascoltandomi mi sento molto bene. Una cazzo di capsula, pensa tu. Ma tu ci pensi, fa, che questo qua è un microfonino che non so se, penso che già li conoscerai, i classici microfoni dei Baufen, quelli piccolini, questo è preciso. Ho capito, sì, io ce l'ho, veramente non ho il microfono del Baufen, ma il Baufen, ho capito benissimo quel microfono, sono quelle cosettine. Adesso, senza dire stronzate, su questo che sto usando, l'MC100, avevo messo una capsula che se non sbaglio era di un radione. Sai, i radioni che hanno il microfonino per registrare anche la cassetta dall'esterno. Sto provando il cazzo e così ricordo che era a Roma, lo stavo usando per registrare, per ascoltare, per amplificare dei bonghetti e una chitarra. Ci avevo messo quella capsulina lì, sembrava che avessi speso un milione di lire per il microfono, cambiato completamente. Cappa, vedi, questo è tornato all'amplificato, non so se il battito è cambiato, la spinta, però credo di sì, perché anche questo è forte. Tieni presente che sono a braccio steso per comodità, quindi magari avvicinandomi anche al mic dovrebbe anche cambiare. Basta, fatti confermare che poco fa era già più alta e anche come chiarezza non ha da invidiare il dinamico a questo, addirittura col dinamico secondo me riuscivi più forte, anche il mio strumento me lo dice, che sbatti di meno con questo. Avvicina la poca amplificata, vediamo se riesci ad avere i picchi che ci avevi con l'altro, va? Vabbè dai, così sono a 30 cm dal mic. Sì dai, sì, ce la fa. Per un pelo, ma ce l'ha fatta. Vabbè, ma qua c'è la possibilità di alzare anche, non sto alzando per non disturbare, perché molte volte capita che la gente è troppo alta la radio e insomma disturba, quindi farlo sereno, tranquillo, a una certa distanza. Sì, comunque è bella quella dinamica, bella modulazione con la dinamica, bella. Bel microfono, complimenti. Bene. Dai, facciamo riprendere a Claudio che è in tramvai, che è da poccante. Claudio. Sì, grazie. Sì, io sono interrotto, mi sto ascoltando, sì. Diciamo, ho fatto un discorso di Intex, poco fa, di quei baracchini, e noi abbiamo un calzò di quindi in garage, sono di qua, guarda qui, si è stato contento di uscire, sono tutti in Vigiland, si mi piacciono più, mi ha parlato della Vigiland, guarda qui, di quello. Vabbè, Gianni, tu l'hai mai avuto l'Intec, lasciami ricordare, l'FM500S se non sbaglio. No, Puglia, ma l'hanno rubato dalla macchina. Ecco, quella era una radio che quanto al 48 si assomigliava molto, però mi sembra che era 34 canali se non mi sbaglio, poi c'era una modifica tipo con la pinza per arrivare per arrivare ai 40. Sì, esatto, ci doveva mettere uno straccio e con la pinza forzavi una lamella in plastica che bloccava i canali e non arrivava sino al 40 pelottino, faceva 35, 36, 30, fino al 38 mi pare che arrivava, una cosa del genere. Vabbè, comunque quello lì ce l'ho detto insieme a quel microfono che ti ho detto, all'Intec, quello che aveva la batteria da 1,5 sparava come, non so quanto mi sentivano forte. Sì, no, io lo, allora, per quanto riguarda la modifica dei canali, sì, facevi così con la pinza, arrivava sino ai 40, però, che mi ricordi io, non erano consecutivi, cioè faceva la 30, non mi ricordo se era 35, non ricordo, poi faceva per dire 38, poi 39, 37, sfalsati, una cosa del genere, insomma, non ricordo bene la cosa, perché l'ho avuto ma non ho confrontato bene com'era. Comunque il 500 è bello apparato, bella modulazione, bella radio, e non prendeva neanche tanti colpi. Al contrario del 48, io ce l'avevo a casa, il 48, la mia prima stazione è stata un più 5, un 48 e il BV131, poi con la Mantova 1, però negli anni nostri, ripeto, c'erano le antenne che crescevano come i funghi, quindi è durato poco quella stazione, perché poi mi ha preso subito il 140, perché i splatter facevano male, quindi erano meglio darli che riceverli. Sicuramente, troppi colpi, io avevo un'antenna a 30 metri da una parte e un'antenna a 30 metri dall'altra. Mi volevo prendere il Galaxy perché era una bella radio, parte con i fili, diverse cose, eccetera, eccetera, in basso avanti uscire con 5 watt, poteva essere 10 per la modulazione, mi sentivo quelli con Galaxy che prendo il Galaxy dopo una settimana l'ho mollato, ho tenuto un mese lì, perché prendevo troppi colpi, troppi. Sì, vabbè, grazie, a me sinceramente è una radio un po' così, non è che non mi piaccia, è che è molto mastodontica, ha molto spazio tra un comando e l'altro, e poi effettivamente prende colpi, quello sì, quello va bene, magari in un QTH campagnolo come sono io adesso, magari, e dargli un po' di potenza, allora spinge, perché è una radio che spinge bene, ha un bel ricevitore, ha una bella radio, per carità, però prende, il difetto che ha è come il Pluto, praticamente prende splatter, quello sì, vabbè, però è bella come radio, non sto dicendo che è brutta. Guarda, subito dopo l'ho data, insieme l'ho data tipo 250.000 lire, nuova di stecca, tutto originale, bellissima, e me l'ho preso l'FT250, insomma, è possibile. Può essere, no, io sono basato su altro radio, a me piace molto il K, vado su quello, però mi piacciono anche molto i baracchini, però i baracchini, come ti posso spiegare, massicci, capito, non quelli un pochino dove partono già dai 120 canali in su, mi piacciono, però che devono avere massa, ecco. Ma la batteria, a te piace la EPT3006 come anche la base, con 120 o 262 canali, anche 400 si può fare, tutti quelli che hanno quella base hanno anche un buon ricevitore, escono bene, praticamente è quello che stai ascoltando. Dimmi una cosa, quanto lo stai vendendo? Cosa, questo? No, poverino, questo no, non lo vendiamo, dai. Va bene, va bene, no. No, poi vabbè, anche Lincoln mi piace, però adesso per dire, se io ce li ho tutti e due vicini, guardando, no? Tipo il 525 e Lincoln, no? Sembra il figlio. Sì, io ho la stazione qua, grande, sopra di lei ci sono 1, 2, 3, 4 apparecchi, capito? Cioè, lei è in grado di tenere gli altri in fila sopra, figura. Bene, bene, Gianni, stiamo parlando sicuramente, e Claudio. No, avete parlato uno sull'altro, magari era Gianni sotto, Gianni eri tu? No, non era Gianni, Claudio, non potevi essere tu. Ero io. Vedi, adesso gli hai dato una brutta notizia a Gianni. Ma ce l'ho finito sotto. Ma voi non potete capire come c'è la situazione a barraccata io. Siccome ho due antenne diverse, una sulla finestra e una sul poggiolo, praticamente in due non ne fanno una. Attaccate a apparati di vetri che hanno diverse sensibilità. Se parla uno lo sento di più da un altro parlante, se parla l'altro lo sento di più da un altro parlante, cioè è una figata. Perciò ho sentito Gianni che parlava, che usciva più da destra e tu che uscivi più da sinistra, è uno spettacolo. È bello, è una bella invenzione comunque. Stereofonia. Sì, già, davvero, perché poi tra l'altro parlando, no? Che parla un po' uno, parla un po' l'altro, sembra proprio di essere un po' in mezzo alla gente, capito? E io sono piccolino, sto scendo con 3 battimi stasera. Ma è sicuro? Davvero? Questo è il fondo scala qua, il 5005, guarda che stai dicendo, stacca. Stacco, aspetta che attacco, Tino, visto che tu stai parlando, attacco. Prova. Adesso sono attaccato, guarda quanto ti avvito, spaccando lo smitter ti sto. A Vivese. Aspetta, prova. No, volevo controllarti con l'altro, stavo accordando. Ma no, con questo sei quasi fondo scala, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, così. Così sì, sei fondo scala, prova. Così è senza. Va bene. Aspetta un attimino che provo con l'altro, così stacchi e attacchi. Così Gianni si è fatto un paio di decibeli più di te, adesso non sentire. Insomma, li sentiamo. Gianni ha attaccato, ti ha attaccato, ti ho attaccato, io 4 volte. Dai ragazzi, non posso figurare, dai, per favore, attaccate tutto, che mi sento più male anch'io. No, io non sono attaccato, perché è l'altra radio, prova già, attacca e stacca, ti dico la differenza. Così ha attaccato, guarda. Quasi 9.35. E così è staccato. 9, quasi 9.30, 9.28, vai, per essere proprio preciso. Già fa, già fa. Vedi che bugie, non le dico. No, va bene. No, perché io, nell'altro, essendo quelle tacche lì, me le riempi tutte, capito? Io con questo sono molto più basso. Ma adesso sono con un watt, guarda quanto ti arrivo. Allora, così se sei con un watt, mi stai arrivando, signore di Claudio, 9.22. Ma noi siamo vicini a quello. Sì. Qui è il massimo di watt. Questo è il massimo della radio? K. E come sei 9.30? 9.30 spaccato. Però se aumenti arrivi 35, anche 38. Cava. Va bene. Dai. Adesso posso stare tranquillo. Vabbè, questa va è l'altra, però è fatica a toccare la cifra di 3 zeri, questa è in salita, non è come l'altra, però spinge di meno, non è stata mai toccata, questa è originale, quindi mi fa anche piacere. Questa mattina sta pagliando il cazzo. Hai capito ciò? Ho visto che insomma avete attaccato e siete tutti in fondo scala, tutti vicino a fondo scala sulla stazione. Tu, lui e Chiodo, tutti belli alti, belli potenti. Così fa piacere parlare, vedi? No, vabbè, io qua non ho niente, questa è pulita. Figurati, perciò 4 fatte. Sì, questo è il 45. E quanti sono riusciti? Fa fatica, dai, diciamo sono una 60, 70, non di più. Non è stato modificato questo, questo è originale, primo pelo, anzi secondo dopo di me. Vabbè, ci sono più di un paio di watt. Comunque è pulita, radio pulita, segnale buono, tutto bene, cioè a meno che non miri a a parlare chissà dove, arrivare chissà come, per questo sulla 27 si parla in locale, c'è poco da fare. In locale io sono mantenuto sulla finestra e lo smitter me lo muovi bene bene. Ah vabbè, ma sul muso può aumentare, non è che la faccio andare ancora un pochino di più, ma non mi interessa, questa la uso molto più sull'ascolto o in altre cose, capito? È che insomma così l'altra è più carica perché va da battaglia. E cappa, sono belle radio quando c'è la passione, non è qui avere solo una, c'è proprio la fare. No, guarda, io sinceramente, vabbè, mi piacerebbe poterle utilizzare un po' tutte, è che sono accampato praticamente, quindi nella scrivania ho tre radio, quattro radio, non di più, e poi gli altri le ho dovute mettere in basso, così staccate, perché non è che posso stare lì, ho un commutatore di sei posizioni, però ne sto utilizzando quattro adesso, giusto per giocarmi un po'. Sì, non devi fare le mescole più grandi. Sì, ma ti ho mandato la foto, hai visto Gianni? Io non è che sinceramente sono qua in Salone, a me non piace, quindi è tutta fatta un po' così, organizzata giusto per fare due chiacchiere. Il problema è che non è una stanza mia personalizzata, perché sennò avrei fatto di tutto e di più. Prima ce l'avevo, però poi è nato il secondo e quindi ho dedicato la stanza a lui, il piccolo, quello che ho visto stamattina. Carino, con la mascherina, che bellissimo. Quello d'altronde bisogna imporre, anche se allora non ce n'è bisogno, perché mi sa che sono più i muri di noi, però. Vabbè, meglio prevenire che curare gli aisci. Certo, certo. Va bene, va bene. Claudio. Questa volta vi chiamando a me. Ciao, qua. Saluto a te, saluto a Gianni e all'altro amico Fabio Master. Ci sentiamo alle prossime e saluto anche voi, voi alla mattina ascolto. Correggi da parte mia. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Claudio, ciao, pesci di titto, dai. Buon corretti, avanti Claudio, avanti Massa. Cappa, Claudio, salutoni, buon 144, buon tutto. Sempre un piacere questo con te. Saluta Babbo e ci sentiamo alle prossime. Tino. Ciao Chiodo, ma saluta a Babbo, tante cose belle, Ciao Claudio Spalvino, avanti. Non ho sentito Claudio e pensavo stavate chiamando a me. Continuate, continuate. Vi saluto, io sono sempre in ascolto e in agguato. Ok, fate pure. Ciao, buonanotte. Fate bubisi. Ah, fate bubisi. Come? Ho detto fate bubisi. Andate, siamo qua Claudio, ciao. Ehi, ciao. Ciao Claudio, così. È entrato dove sei andato? Vabbè. Quanti è che siamo? Allora, io, Fabio, Master, poi ci sono Gianni, Doppio, Room, e poi Tino, poi, quanti siamo? 25 ruota oggi. Sì, questo è l'altro, Fabio, questo è un dinamico stesso, però con il Lincoln. Benino, pochi acuti come modulazione, però bella radio, bella pulita. Normale, normale, voglio mettere più 5 qua, o più 4, adesso vediamo. Comunque già ti muovi un po' di picco col dinamico, questo è dinamico. Sì. Già due picchettini fai col dinamico, magari sono amplificato, si inizia a vedere come con l'altro apparato può comparlo, devi vedere, ce la fai il mattino perché c'era la lancetta che rimbalzava, capito, bellina, col dinamico. Questo è l'altro, dai, il Lincoln mi piace adoperare molto stesso, solo che una ne devi adoperare il radio, quindi non è che puoi stare lì a giocarti con tutti e tre contemporaneamente. Sì, vabbè, un po' uno, un po' l'altro, amici, Gianni che le cambia ogni tanto. Oh no, già, tu te la cambi la radio ogni tanto, mentre stai parlando così. Sì, io tutte le sere le faccio girare tutte quante quelle che ce le faccio girare. Vedi, quando sei appassionato non passano la radio, c'è poco da fare. E non ti fa bene anche una santa se la passione continua. Sì, ma già ammazzano i soldi che spendi, quindi. No, questa qua è perché è stata ripristinata, riportata un pochino allineata e quindi ho detto, ah, usiamola un pochino, perché era in vendita. Poi ho detto, ma chi è che me lo fa fare? Me la tengo, mi piace. Ma il vinco? Ehi, ha già. Te l'ha messo a posto per Fabrizio? Sì, ti ricordi che questa qua, allora, ci va bene all'inizio, quando scaldava un po' andava in saturazione, non so cosa faceva, invece adesso sembra che stia tenendo, però la devo utilizzare per vedere se, insomma, cambia qualcosa. C'era il cane che stava abbaiando verso il cortile, ma se non ho sentito l'uccello. Ma quello stavo pensando, lo sai? Non dire scherzandomi, lo sai che me l'ha fatti trovare lui, l'uccello, me l'ha fatto vedere lui dov'era, che si è arrampicato sul coso dell'albero, l'ho visto l'uccello, se non l'avrei visto. Ma come detto qua, il cane sta abbaiando, ho pensato, si sta puntando l'uccello, vedrai che sta guardando l'uccello, ma anche l'uccello secondo me sta arrivando, cioè cercherà di tornare in qualche modo. Ma lo sai già che io quando l'ho visto dal tuo terrazzo, se tu avessi avuto un canocchiale, lo vedevi chiaro chiaro, io l'ho visto in mezzo a delle foglie che praticamente c'era un buco dove non c'erano foglie e si vedeva lui perfettamente. E tu mi nomi, lo vedi, l'ha visto anche Nicola. Praticamente più luce c'è e più fanno la cova. Io gli ho dato, avevo 21 gradi di temperatura dentro casa, in più gli ho dato la luce, gli ho messo quella a LED, quella lampadina grande a LED. E mi hanno fatto le uova e i figli pure, capito? Sono nati fuori stagione, sono nati a gennaio invece che in primavera. Avete parlato appena appena insieme? Sì, ti stavo dicendo già, quando ero nel tuo terrazzo l'ho visto quello rosso, che era praticamente in un buco dove non c'erano foglie, si vedeva rosso rosso, infatti ho detto, ma colui mi sembra quello, ho detto, se avessi avuto un cannocchiale a guardarlo l'avresti visto meglio. Sì, quello l'ho beccato, ti ho beccato quello e quello giallo, tutti e due. Non ho beccato quello che cantava un bel, quello che proprio che fa i borghici, che la mattina alle 8 mi fa la svita. Ma scusa, come è stato a beccare col coppo? Come li hai presi? E li ho seguiti da un albero all'altro, ho saltato il muretto, sono andato nell'altro condominio, sono entrato dentro il recinto dove c'era il bombolone del gas che si è andato lì dentro. Ce l'avevo già in mano, mi è scappato, poi sono salito a casa, ho preso il coppo, perché ero col cane, non mi sognavo più di trovarlo, capito? Sono salito a casa, ho messo il cane, ho preso il coppo, sono sceso giù e l'avevo già beccato, capito, col coppo, e praticamente era nel bordo, è riuscito a scappare. È scappato ed è andato nel cortile nostro. Ho aperto il cancello, sono entrato nel cortile nostro ed era sul tetto della macchina. Ma dimmi tu, e l'altro l'ho preso sul cofano della macchina. No, ma voglio dire, cioè, si lasciano avvicinare, quindi sono degli uccellini che o ti hanno conosciuto, perché quando si sentono in pericolo, anzi, volano. Sì, il scopo è un grave, quello che c'ho io, mi ha perorate di quelle grandi a 4 kg, roba del genere. E in più mi abbassavo, non mi facevo vedere più di colpo, zac, capito? Vabbè, dai, l'importante è averlo preso. Cioè, io voglio capire chi mi vedeva passando, mi sembrava che se si vanno a rubare a Sirio Lupe, sembrava passando e camminando piano piano come fa il gatto quando si vede la preda, e poi di colpo col coppo, cazzo, in città con il coppo in mano, te le mani. Una macchiatura della macchina anche? Via. No, intanto non è la mia la macchina, della Fiat. Scrivami a fare il tagliato. Cappa. Andava bene. Sono andato quella di cortesia. Già, ecco, quindi. Vabbè, cambio, dai, che non mi piace il palmare. Comunque due li ho beccati su tre. Ma se riesco a beccarlo, quello lì fa piacere perché canta va bene. Dai che lo becchi domani mattina, ti metti alla sveglia 7:30, stai la terrazzino e apri le orecchie, vedrai che lui canterà alle 8 precise, ho capito che si è ingoiato la sveglia, perciò non può non cantare. No, ma sai il bello cos'è? Io penso che se lui lascia le finestre aperte, io credo che magari col canto anche degli altri, ritorna indietro. Sì, sì, l'ho pensato anch'io, capito, che poi torno a casa, perché la casa è posto che conosce, magari gira un pochino, si perde un po', poi sente gli altri e ritorna. Lo spero proprio già. Boh, io qua ho un cucuriccio, infatti ne avevo quattro, perché la verità sono a caso, due sono fuggiti e non sono più rientrati. Questo, vabbè, è successo il secondo giorno che ce l'avevo, quindi effettivamente non conoscevo né la zona, nella casa, nella gabbia, niente. Adesso me ne è rimasto uno solo perché uno è morto, e questo qua pian piano sto riuscendo a prenderlo in mano e si fa carezzare, solo a me però, un po' lo faccio girare nella casa, rientra in casa nella sua gabbietta, però è sempre un po' diffidente perché io lo prendo, si fa carezzare tutto quanto e fa guardando a me e guardando la gabbia, guardando a me che fino a che la terza volta che la guarda deve scendere per forza nella gabbia e deve entrare per forza, si sente protetto lì, capito? Se io lo dovessi lasciarlo libero perché poi sai, loro volano dove c'è la luce, se io per dire accendo la luce in salone che c'è una parete che separa la cucina, quindi lui entra e esce, però sta dove c'è la luce e può magari rimanere anche tutta la notte appeso alla tenda della finestra del salone. Per farlo ritornare in cucina spengo la luce in salone e accendo quella la cucina. Allora lui si fa un giro della cucina volando e poi vede la gabbia e parte e entra dentro. Che forte! Ci avevo un passerotto addomesticato, lo sai? Lo facevo volare e poi ritornava sull'avanzale. E praticamente se io sapevo l'ora che tornava, guardavo se c'era e lo trovavo, gli aprivo la finestra e entrava dentro e lo mettevo in gabbia. La mattina di nuovo lo facevo volare, un giorno non è più tornato, mio Dio mi ha detto che ho trovato la femmina oppure l'hanno ammazzata. Sì, ma infatti, abbassa un pochino, infatti anche quello già, capito, non è che, però lo sai, è ancora differente. Quello sai cos'è? Sono in mezzo ai pericoli perché è pieno di gatti giù, ci sono le cornacchie, i gatti, se non sta già attento si lo bagna. Cappa, segnalo qua. Beh ragazzi, mi sa che io cambio QTH. Sì, anche io, stavo pensando a quello perché già mi ho preparato la roba e quindi tra il mangiare, il vestiario e quant'altro, anche se sinceramente sono non ne ho, però sai, se non si riposa poi l'indomani è critica e dura. Domani al lavoro? Sì, domani sono a Portottolo, sto facendo uno scavo di una fogna, di una casa e poi spargergli un po' di terra per il giardino. Cazzo, e che zona sei? Allora, sono, non lo so, ti mando la posizione, tu la capisci meglio di me, perché sono vicino, c'è la presenza dove la Rosa dei Venti? La Rosa dei Venti, sì, Pietro Le Sacchi. Lì vicino, là. Lì alla Rosa dei Venti gli ho fatto un piazzale per mettere gli autobloccanti, li hanno già finiti, li hanno già posizionati adesso. Infatti lunedì sono andato a prendergli la cosa di Patrice che gliel'abbiamo prestata. E da lì sono un po' di traverse, non la so la via, sinceramente. Ti mando la posizione così capisci dove sono. Via Principessa Giovanna dice lì dietro. Boh, non lo so, sono delle case nuove costruite, quindi cioè, sta facendo un amico mio, quindi non ho. La zona la conosco lui di Porto Torres. Ho capito. Vabbè, più o meno già ho capito. Già giù Gambino. Adesso sono un po' che non ci scendo con le zone di Dio, con le traverse, con le vie, tutte le conoscevo perché facevo le consegne, quindi le conoscevo tutte. Va bene. E dov'è Fabio? Dov'è? Che fine ha fatto Fabio? Qua sono, qua. Dai, vedo il correttivo. Mi ha fatto molto piacere parlare con voi, come sempre. chissà quanti mi stanno ascoltando, non hanno il coraggio di schiacciare il bottoncino, vabbè, una conversazione anche per loro. E comunque è sempre bello sentire la 27 viva, c'è poco da fare. Allora vi do un buon progettivo, un tutorial quando lo farete, e mi sa che ci sentiamo domani, lo facciamo coincidere. Buonanotte. Ciao Fabio, ciao, buonanotte anche a te, dai, ci sentiamo.